Le 13 e un minuto. Merry Christmas! GR24, il sole 24 ore. Migliora la situazione dei trasporti al nord, ma anche oggi forti ritardi sulle ferrovie. Il ministro Matteoli chiede scusa per i disagi. Basta odio e disfattismo, dice Silvio Berlusconi. Per il premier la ripresa ci sarà già nel 2010. Inizia tra poco a Washington il voto alla riforma sanitaria di Obama. In Cina nuove condanne a morte per i disordini di luglio. Diplomazia internazionale in difesa di un dissidente sotto processo, ma per Pechino sono ingerenze. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. In primo piano la situazione meteo in una giornata di grandi spostamenti. Al momento non sono segnalati particolari disagi, anche se i fiumi in modo particolare rimangono sotto osservazione per la possibilità di straripamenti. Secondo un monitoraggio della Coldiretti alle 9 di questa mattina, a Ponte Lago Scuro il livello del Po è salito di un metro in un solo giorno per effetto dello scioglimento della neve e della pioggia che cade da ieri sera in buona parte del nord Italia. Sempre per le temperature in aumento, permane alto il rischio valanghe su tutto l'arco alpino. Dopo il caos di ieri è migliorata la situazione alla stazione centrale di Milano. Rimangono purtroppo però i ritardi sulla rete ferroviaria, mentre le ferrovie dello Stato confermano forme di compensazione ancora non precisate per i disagi di questi giorni. Ma era possibile evitare una situazione del genere? E come? Cristina Carpinelli lo ha chiesto a Federico Fabretti, portavoce delle Ferrovie dello Stato. In 10 minuti la temperatura si è abbassata di 6-7 gradi. Quindi il vero problema di ieri è stata la rottura delle linee elettriche in diversi punti proprio a causa di questo improvviso abbassamento della temperatura. C'è un modo per non far ghiacciare le linee elettriche? Perché no, so che nel nord Europa modo. I binari... No, sulle linee elettriche no. Sui binari sì, e ce l'abbiamo anche noi. Ovviamente si tratta anche di un discorso invece di taratura. Cioè noi abbiamo un sistema che è tarato per temperature medie. I macchinisti, alcuni, hanno sostenuto che parte del disagio verificatosi ieri sia da imputare a una mancanza di personale che ha mandato in tilt l'organizzazione. Cosa risponde? No, è una sciocchezza. Non esiste mancanza di personale né tantomeno assenza di manutenzione. Manutenzione è la prima delle spese, la più importante, quella che non viene mai decurtata da parte di Ferrovie dello Stato. A questo punto veniamo al capitolo rimborsi. Come verranno effettuati? Non so, stiamo studiando. Dunque, la normativa europea non prevede in casi di questo genere rimborsi. Noi comunque stiamo studiando non forme di rimborsi, ma forme comunque di compensazione, di attenzione ai passeggeri che oggettivamente hanno subito ritardi, disagi e che comunque vedono i Ferrovie dello Stato e il gestore del servizio che hanno scelto e che hanno comprato. Sono già stati rimborsati 7.000 viaggiatori che non hanno viaggiato e senza alcuna decurtazione. E intanto il ministro delle infrastrutture questa mattina, queste sono parole importanti, Altero Matteoli chiede scusa agli italiani per i disagi nei trasporti a causa del maltempo. Il ministro ha però ricordato che di fronte alla possibilità di chiudere la rete ferroviaria si è deciso di tenerla aperta perché nonostante i disagi e nonostante i ritardi decine di migliaia di passeggeri hanno raggiunto le proprie destinazioni per passare il Santo Natale. E si scusano anche i macchinisti della storica rivista Ancora in Marcia. Secondo i macchinisti la causa principale dei disservizi non è addebitabile all'emergenza maltempo, quanto a scelte tecniche e gestionali errate. Cristina Carpinelli ha sentito Alessandra Valentini. È addebitabile ai tagli che vanno avanti negli ultimi anni sul personale addetto alla manutenzione come al personale di bordo, e quindi alla fine si è di fronte a linee, a infrastrutture, a personale che è al collasso, cioè che è al limite, non al collasso, è al limite, quindi al primo imprevisto, ma non un'emergenza nazionale, perché il terremoto è una calamità naturale, ma il maltempo, lo abbiamo ripetuto pure in altre occasioni, o la neve a Milano non è un evento così imprevisto. E questa è la posizione dei macchinisti di questa storica rivista Ancora in Marcia. Adesso cambiamo argomento, la politica, con le parole del Presidente del Consiglio. Non potendo apparire in video, il premier Silvio Berlusconi sceglie la radio per comunicare con gli italiani alla vigilia di Natale. Preferisce prima di tutto dedicarsi ai temi economici come crisi e tasse. La ripresa ci sarà, promette Berlusconi, perché tutti gli indicatori vanno in questa direzione. Il presidente del Consiglio è fiducioso e cerca di infondere fiducia. Mi aspetto che tutti reagiscano positivamente, perché senza ottimismo non si va da nessuna parte. Ma non mancano i riferimenti al clima politico. Mi auguro, afferma Berlusconi, che tutte le fabbriche del disfattismo e del pessimismo la smettano di produrre un'atmosfera che non è solo di odio e di violenza nella politica, ma anche negativa sul piano del consumo e degli investimenti. Berlusconi promette poi di sconfiggere la mafia, un fenomeno patologico da eliminare definitivamente negli anni che restano di questa legislatura. Ribadisce poi che, malgrado le accuse contro di lui, nessun governo nella storia della Repubblica ha mai agito con così tanta determinazione ed efficacia nella lotta alle organizzazioni criminali. Elisabetta Fiorito, GR24 e Sole 24 Ore, Roma. Un richiamo a tutta la politica arriva dalla presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che auspica le riforme per fare ripartire l'Italia. Possiamo giocarcela, dice in un'intervista al Corriere della Sera. Nell'economia globale un posto da protagonisti possiamo averlo. Dobbiamo varare una riforma degli ammortizzatori sociali, non solo in una logica assistenzialista, ma puntando molto sulla formazione in azienda e sul territorio. Andiamo all'estero, negli Stati Uniti. Al via in questi minuti al Senato americano il voto finale sulla riforma sanitaria degli Stati Uniti. Il voto era previsto inizialmente per la serata italiana, ma è stato anticipato quasi all'alba per dare il tempo ai senatori di tornare a casa per il giorno di Natale. Ma che cosa prevede questa riforma di cui tanto si parla? Sentiamo tutti i dettagli in questo servizio. Il momento è solenne, anche se non si tratta ancora della fine del percorso. Il voto odierno al Senato americano farà la storia, perché dopo decenni di tentativi andati a vuoto, la riforma sanitaria Made in USA farà un passo decisivo verso la sua approvazione definitiva. Un bel regalo di Natale per Barack Obama, che in neppure un anno porta a casa il progetto di legge su cui ci aveva messo letteralmente la faccia. Ma quali sono i punti principali della riforma e in cosa divergono il testo approvato dalla Camera e quello in votazione al Senato? Innanzitutto i costi. La Camera ha previsto oltre $1 miliardi in 10 anni, il Senato abbassa la cifra a 871 milioni. Poi la copertura sanitaria. La Camera punta a coprire 36 milioni di americani in più, lasciandone 18 milioni scoperti. Il Senato riduce il totale a 31 milioni, lasciandone scoperti 23. Quindi l'opzione pubblica, vale a dire la possibilità per il programma governativo di competere con le assicurazioni private. È prevista nel testo della Camera, ma non in quello del Senato, il che pare far tramontare questa innovazione, a meno di sorprese. Anche un sistema nazionale di confronto delle politiche e dei prezzi tra le diverse polizze è previsto nel testo approvato alla Camera, ma latita in quello del Senato. Le aziende con un tetto di stipendi annuale superiore ai $500,000 saranno obbligate a fornire una copertura, secondo il testo della Camera, ma non per quello del Senato, che si limita a offrire incentivi fiscali. In entrambe le versioni le compagnie di assicurazioni private vedranno crescere i propri obblighi verso gli assistiti. Ad esempio, non potranno incrementare eccessivamente le polizze nel caso il cliente sia anziano, dovranno giustificare gli aumenti generali dei prezzi e non potranno rifiutarsi di coprire spese per malattie già diagnosticate. Per finanziare la riforma ci sarà pure un lieve incremento delle tasse per i redditi medio-alti. In generale la versione del Senato appare meno rivoluzionaria rispetto a quella della Camera, anche per tenere conto della maggioranza più risicata del Partito Democratico. Se la Camera Alta approvasse oggi il testo, le due versioni dovranno poi essere unificate in un'unica bozza finale prima di essere rimandate in votazione. L'ultimo e altamente simbolico atto sarà la firma del presidente Barack Obama. Sergio Nava, GR24, il Sole 24 Ore. Adesso andiamo in Kosovo, una vigilia di Natale fra i militari per il presidente del Senato. Sentiamo in diretta da Pece Chiara Di Michele. Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno, mi trovo nella base militare italiana di Villaggio Italia, presso la città di Pece, nel nord-ovest del Kosovo. Villaggio Italia è il quartier generale a comando italiano della Multinational Task Force West, una brigata a composizione multinazionale inserita nella Kosovo Force, la forza armata multinazionale della NATO. Il presidente del Senato Schifani ha portato il suo saluto per mostrare affetto e vicinanza al contingente militare italiano impegnato a mantenere un ambiente sicuro nella ex provincia serba. un ambiente sicuro per tutta la popolazione, permettendo la libertà di movimento senza distinzione di etnia e religione. La stragrande maggioranza della popolazione è rappresentata da albanesi, ma c'è anche una minoranza di serbi. L'Italia, ricordiamo, è intervenuta con il contingente NATO nel 1999 per porre fine alla repressione serba. Oggi la situazione si è stabilizzata dal 2004, non ci sono più episodi di violenza. Entro ottobre 2010 1300 militari italiani dovrebbero lasciare il Kosovo in vista dell'incremento di circa 1000 unità in Afghanistan. Ricordo che il Kosovo ha proclamato la propria indipendenza unilaterale dalla Serbia nel febbraio del 2008. Per il momento da Pece è tutto, restituisco la linea allo studio. Questa era Chiara Di Michele, ci scusiamo naturalmente per la cattiva qualità del collegamento, del resto insomma queste sono le linee telefoniche del Kosovo. Adesso torniamo all'estero e parliamo dell'Iran. Le autorità di Teheran hanno vietato ulteriori cerimonie di commemorazione del defunto ayatollah dissidente Ali Montazeri, eccetto a Qom, nella città natale del religioso. La decisione arriva all'indomani degli scontri che hanno segnato la commemorazione, durante le quali le forze dell'ordine avrebbero utilizzato gas e lacrimogeni per disperdere la folla ed effettuato decine di arresti. In caso di morte, lo ricordiamo, la tradizione sciita prevede, oltre al funerale, commemorazioni al terzo, al settimo e al quarantesimo giorno dal decesso. Per domenica, settimo giorno dalla morte, si temono nuovi scontri. Ed è notizia di poco fa di incidenti fra oppositori al governo del presidente iraniano e altri membri della comunità iraniana di Francia davanti all'ambasciata d'Iran a Parigi, quindi la situazione è tesa anche all'estero. Ci spostiamo in Cina, dove sono state condannate a morte altre 5 persone di etnia uigura per i disordini nello scorso luglio nello Xinjiang. Sale così a 22 il numero degli uiguri condannati alla pena capitale per le violenze interetniche in cui persero la vita ufficialmente 184 persone. Ed è attesa per domani a Pechino la sentenza contro il più noto dei dissidenti del regime. Per chiedere la sua liberazione si è mobilitata la diplomazia internazionale, ma la Cina ora denuncia quelle che definisce ingerenze straniere nel processo. Cresce l'attesa per la sentenza contro l'attivista dei diritti umani Liu Xiaobo. Il verdetto è stato annunciato per domani, una scelta di proposito, sostengono le organizzazioni umanitarie, per farlo passare inosservato. Pechino intanto alza la voce contro le diplomazie straniere, colpevoli, dice, di aver interferito negli affari interni cinesi. Gli appelli di alcune ambasciate per il rilascio di Liu Xiaobo, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri, costituiscono una grossolana ingerenza. Ieri al processo, durato solo 2 ore, si sono presentati molti diplomatici che insieme a decine di giornalisti stranieri non sono stati fatti entrare. Tutti chiedevano la liberazione del dissidente. Liu Xiaobo, 54 anni, è accusato di istigazione alla sovversione per aver promosso Carta 08, un documento firmato da 300 personalità in cui si chiede al governo cinese di rispettare i diritti umani, attuare riforme politiche e garantire l'indipendenza del potere giudiziario. Rischia una condanna tra i 5 e i 15 anni di carcere. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Riprende GR24 alle 13:16. Abbiamo 2 notizie dell'ultimo momento, dell'ultimo minuto. La prima arriva dagli Stati Uniti. Abbiamo parlato poco fa della riforma al via il voto al Senato e poco fa è arrivato il voto del Senato che ha approvato la riforma sanitaria proposta da Obama. Naturalmente nelle prossime edizioni di GR24 torneremo su questo importante argomento anche per capire quali saranno i prossimi passi di questa riforma. Un'altra notizia invece arriva dall'Italia. È morto oggi l'attore e regista Giulio Bosetti, direttore artistico del Teatro Carcano di Milano. Ne ha dato notizia poco fa l'ufficio stampa del teatro. Bosetti è stato un grande attore, un grande regista, una vita intera dedicata proprio al teatro. Adesso torniamo all'estero, parliamo di un raid che è stato fatto dall'esercito yemenita, 34 presunti membri di Al-Qaeda sono rimasti uccisi in questo intervento. Sentiamo i particolari nel servizio. Decine di membri di Al-Qaeda erano riuniti in una regione montagnosa isolata a circa 650 chilometri dalla capitale dello Yemen per mettere a punto una serie di attacchi contro obiettivi internazionali e installazioni militari quando è scattato il raid da parte dell'esercito yemenita. Tra le 34 vittime potrebbe esserci anche Anwar al-Awlaki, l'imam radicale americano di origine yemenita, accusato in Gran Bretagna di aver sostenuto attacchi contro le truppe britanniche all'estero e del quale era seguace Nida Al-Hasan, l'ufficiale musulmano responsabile della strage di Fort Hood negli Stati Uniti, una strage che nel novembre scorso costò la vita a 13 persone. Nel raid potrebbe essere stato ucciso anche Abu Basir Nasser al-Wahaishi, considerato il leader di Al-Qaeda nella penisola arabica. Il gruppo da lui guidato aveva annunciato all'inizio dell'anno un'offensiva contro obiettivi occidentali nel paese e anche il proposito di rovesciare il governo saudita alleato degli Stati Uniti. La scorsa settimana, in un altro raid dell'esercito yemenita nel sud-est del paese, le vittime tra gli estremisti islamici furono 30. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. La Georgia ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Russia per la riapertura dell'unico punto ufficiale di frontiera chiuso 3 anni fa. Il passaggio tra Russia e Georgia tornerà in funzione all'inizio di marzo. Adesso cambiamo argomento, torniamo in Italia. Ricorderete probabilmente il caso del tecnico dei laboratori del Gran Sasso, Giampaolo Giuliani, diventato famoso dopo il terremoto in Abruzzo perché aveva previsto il sisma grazie alle sue rilevazioni collegate alle emissioni di gas radon. Giuliani era stato denunciato per procurato allarme, ma la pratica è stata ora archiviata da un giudice del Tribunale di Sulmona. Dopo la decisione, Stefano Totoro ha intervistato Giuliani. Giampaolo Giuliani, la sua tesi è stata contestata da molti geologi. Lei è stato denunciato per procurato allarme prima del terremoto, ma finalmente ora un giudice le dà ragione. Avere giustizia in questo modo è stata la cosa più bella di questo mondo. Non fosse altro perché, ecco, le bugie prima o poi vengono a galla. E poi avere delle persone che si preoccupano di fare giustizia e chiarezza quando ce ne sono tantissime altre, magari, le acque, le idee, mi è capitata una bella fortuna, non trova? Cosa le è successo una settimana prima del 6 aprile? A Sulmona non avevo previsto il terremoto che doveva essere a Sulmona. All'Aquila avevo previsto il terremoto che doveva essere all'Aquila e nessuno mi ha dato ascolto, anzi sono stato minacciato di arresto, sono stato minacciato di denunce se avessi detto e se avessi osservato attraverso gli strumenti che noi abbiamo e avessi allertato addirittura la popolazione, mi avrebbero addirittura denunciato e addirittura arrestato cautelativamente. L'idea era questa, perché l'intenzione di chi in questo momento si interessa della situazione dell'Aquila è quella: se tu dai un allarme potrebbero anche arrestarti. Era un'intervista realizzata da Stefano Totoro. Ed ora parliamo dei nuovi sviluppi nella vicenda della società Agile ex Euteglia. Il giudice del Tribunale Fallimentare di Roma ha deciso di mettere sotto sequestro gli stabilimenti dell'Agile ex Euteglia e ha nominato 3 custodi cautelari. Il 17 febbraio nuova udienza che dovrà stabilire l'amministrazione controllata del gruppo. A raccontarla quasi non ci si crede, eppure si parla di poco meno di 2.000 lavoratori, di cui 1.200 licenziati in tronco, con comunicazione datata 23 ottobre. La vicenda è quella del ramo IT di Euteglia, rapido riepilogo delle puntate precedenti. La famiglia Landi, proprietaria di Euteglia, ha deciso la scorsa primavera di cedere il settore informatica dell'azienda. Nuova denominazione Agile SRL, acquistata da Omega SPA per 96.000 euro. Dopo qualche settimana di euforia, i lavoratori di Agile, ex Euteglia, si sono resi conto che c'era ben poco per cui sorridere. La nuova proprietà non paga gli stipendi e non può prendere nuove commesse perché non ha i requisiti di legge. I dipendenti si organizzano e presentano esposti alla magistratura. Ieri, nuovo capitolo. L'udienza sulla richiesta di fallimento si chiude con il sequestro cautelativo dei beni aziendali e la nomina di 3 custodi. I sindacati sperano che il prossimo 17 febbraio il giudice decreti il commissariamento. Nel frattempo esprimono moderata soddisfazione, come traspare dalle parole di Angelo Pagheria, delegato RSU della FIOM. Il primo effetto è quello di levare la società dalle mani di questi personaggi. Noi siamo da 5-6 mesi senza percepire un centesimo, in una condizione veramente drammatica. Lo stesso per le altre migliaia di persone, oltre 10.000 persone di questo fantomatico gruppo Omega. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore. Sono le 13:22, cambiamo argomento. A suscitato le proteste dei tifosi romanisti la svista della Panini, che nell'album dei calciatori 2009-2010 assegna alla Roma soltanto 2 scudetti invece dei 3 vinti nel 1942, 1983 e 2001. Ne parliamo con il direttore commerciale della Panini, Antonio Allegra. Grazie per essere con noi, buongiorno. Grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Avete fatto un errore, se vogliamo, banale, però un errore sull'album Panini ha avuto una rilevanza, una eco molto importante. Beh, di fatto avete scambiato un numero per un altro. Sì, tecnicamente è questo. Abbiamo assegnato nella pagina dedicata alla Roma 2 scudetti invece che i 3 effettivamente conseguiti. Quindi è un errore piccolo, ma un errore grande concettualmente, di cui evidentemente ci scusiamo, perché ci dispiace aver rubato a una gloriosa società come la AS Roma uno scudetto comunque conseguito sul campo. Adesso avete pensato a come, diciamo, riparare all'errore, almeno per quei tifosi? No, assolutamente sì. Diciamo che noi ci eravamo accorti dell'errore evidentemente prima che scoppiasse, tra virgolette, il caso, ed eravamo già in opera per trovare una soluzione. La soluzione è a 2 livelli. Uno è banalmente, da questo momento in poi, stampare album corretti, e quindi l'errore è presente nella primissima tiratura degli album, quelli già in distribuzione, e devo dire che ci ha anche quasi sorpreso come subito il primo giorno di distribuzione i correttisti si siano accorti di questa cosa. Ci fa quasi piacere, perché vuol dire che c'è veramente un'attenzione importante. Tutti gli album quindi che usciranno d'ora in poi sono assolutamente corretti, ma per quei collezionisti che avessero già cominciato la collezione, già incollato qualche figurina prima di accorgersi dell'errore, stiamo realizzando uno sticker, una figurina, diciamo, speciale, correttiva esattamente, che potrà essere apposta sulla pagina della Roma esattamente sopra il riquadro che parla dei trofei vinti dalla società, e quindi l'album risulterà alla fine comunque corretto. Questa figurina sarà richiedibile direttamente alla Panini, ovviamente senza aggravi di spese, e si può andare nel sito www.calciatoripanini.it e compilare il form di richiesta. L'album sbagliato potrebbe a questo punto diventare oggetto per collezionisti. Per certi versi sì, anche se voglio, ripeto, noi siamo dispiaciuti dell'accaduto, non era il nostro intento, però ammetto che ho letto che qualcuno vive questa cosa appunto quasi con un piccolo gronchioso, qualcosa di strano, proprio perché di solito non succede. Fortunatamente noi di solito non sbagliamo, questa volta è successo e c'è un oggetto in più di culto. Allegra, grazie per essere stato con noi, a presto e buon Natale. Grazie a voi, altrettanto grazie. Bene, ora parliamo di spazio e del razzo europeo Ariane. Buon compleanno Ariane, sono 30 gli anni della via europea allo spazio. Il 24 dicembre del 79 dalla rampa di lancio di Kourou nella Guyana francese decollava infatti il primo vettore del programma Ariane, realizzato dall'Agenzia Spaziale Europea per rompere il monopolio di Stati Uniti ed Unione Sovietica sul lancio di satelliti. Una ricorrenza che i tecnici dell'ESA e di Arianespace, società che gestisce l'utilizzo commerciale del vettore, hanno festeggiato con un nuovo lancio il settimo del 2009, che ha portato in orbita il satellite spia militare Helios 2. Realizzato con il contributo tecnologico di Francia, Italia, Germania e Svezia, Ariane nei suoi 3 decenni di vita ha effettuato 193 missioni, messo in orbita 277 satelliti. La sua versione 5, utilizzata dal 97, è oggi il più potente e affidabile vettore del mondo, con il 97,6% di lanci completati con successo. L'azienda europea nel corso di questi anni ha incrementato regolarmente il proprio giro d'affari, giunto a 956 milioni di euro nel 2008. Gli ha permesso di guadagnare quote di mercato nei confronti dei concorrenti, compreso il grande rivale russo, il Proton. Per il futuro, però, l'affidabilità potrebbe non essere più abbastanza. Per questo la Francia propone ora ai partner europei il passaggio a una versione 6 di Ariane, più leggera, meno costosa, più versatile. Il 2010 promette comunque di essere un anno importante per lo spazio europeo. Molte le missioni e, all'orizzonte, il debutto del lanciatore Vega, atteso ormai da molti anni. Gigi Donelli, GR24, Sole 24 Ore. Adesso cambiamo argomento, parliamo di teatro. Abbiamo poco fa letto assieme la notizia della morte dell'attore e regista Giulio Bosetti. Adesso parliamo di tradizioni regionali che tornano sia a nord che a sud. Il dialetto in scena piace molto. Da una parte la sceneggiata, dall'altra la commedia lombarda. Sono in scena a Napoli e Milano, con grandissimo successo. Allo Smeraldo di Milano stanno per tornare i Legnanesi, la famiglia Colombo, La mamma Teresa, la figlia Zitella Mabilia e il marito Giovanni, appassionato di vino, sempre alle prese con i problemi di tutti i giorni. La famiglia Colombo fa parte del ceto medio-basso italiano, quindi anche per la famiglia Colombo è un problema riuscire a sbarcare il lunari. La Teresa, come battuta, lo dice sempre: riusciamo a tirare alla fine del mese perché il mio Giovanni prende la paga il 27, no? Quindi abbiamo quei due o tre giorni. Già se il mese ne ha 31 diventa un problema. A Napoli invece c'è Nino D'Angelo, che al Trianon Viviani, di cui è direttore artistico, porta Lacrime napoletane. La sceneggiata riveduta è corretta. Di solito il cattivo vuole sempre una sceneggiata. E io credo che non si possa ammazzare nessuno, non esiste proprio nel DNA, non dovrebbe esistere nel DNA delle persone. Per cui ho cambiato il finale, invece di farlo morire il cattivo non lo ammazzo. E questo ci ha destato un po' di scalpore. Eppure l'uno e gli altri farebbero anche scambio, sceneggiata a Milano, dialetto lombardo a Napoli. Non lo so se vengo anche a Milano, spero di venirci. Porca bestia, veniamo a Roma, andiamo a Napoli, andiamo dappertutto perché noi vi vogliamo bene. E il meglio orsa di... Ma se che anche i bar, anche i party lì, mi arrivo. Eccola. Che a Roma hanno detto, però che bravi questi francesi. Tutte le interviste questa sera in Voci in Scena, in onda a partire dalle 20. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Sono le 13:29. Ringraziamo Filippo Aureggi in regia. Giornale radio curato e condotto da Enrico Pagliarini. Dalla redazione gli auguri di buone feste. GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.